9 in punto. Buongiorno, bentornati, eccoci qua, 9 in punto a parlare, in realtà 9:09:34, oggi giovedì 20 agosto 2009, parliamo di colf e badanti, di questa regolarizzazione che sta iniziando, da domani sarà possibile pagare, potrebbe interessare più di 500.000 persone, quindi di 500.000 famiglie, una operazione che mira appunto a regolarizzare coloro che sono presenti in Italia e che costituiscono un aiuto importante per le famiglie, per l'assistenza domestica, per i lavori in casa, e quindi è un'operazione che interesserà molto tutti quanti hanno di questi problemi. Ricordo il numero verde 800 24 0024 per le vostre telefonate e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Ne parliamo oggi anche perché il Sole 24 Ore pubblica oggi la prima puntata, la seconda sarà domani, di una guida dedicata appunto alla sanatoria di colf e badanti, curata dalle colleghe Francesca Padula, buongiorno Francesca. Buongiorno a tutti. E Maria Carla De Cesari, buongiorno Maria Carla. Buongiorno. Avremo con noi, anzi abbiamo con noi Franco Pittau, buongiorno Pittau. Buongiorno. Coordinatore del dossier statistico sull'immigrazione della Caritas, e Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, buongiorno dottor Roma. Buongiorno, buongiorno a voi. Proprio il Censis ha messo in risalto nei giorni scorsi, con un'indagine che sarà presentata peraltro nelle prossime settimane, come l'immigrazione soprattutto di colf e badanti sia ormai una realtà quasi essenziale per il paese. Sono 1.485.000 le colf e le badanti in Italia, il 71% di origine immigrata. Lavorano in media 35 ore alla settimana e guadagnano circa 930 euro netti al mese. Una famiglia su 10, dice il Censis, è dipendente, trova appunto nelle colf e nelle badanti un aiuto essenziale per portare avanti appunto la famiglia. Dottor Roma, è un fenomeno ormai sociale, ormai consolidato, e questa sanatoria può dare maggiore sicurezza anche a queste famiglie? Ma certamente, perché questo fenomeno nasce diversi anni fa, ma ha avuto un'indubbia accelerazione. Pensiamo che negli ultimi 7-8 anni il numero di chi assiste la famiglia, chi vive nello spazio domestico, di chi aiuta gli anziani o i non autosufficienti è aumentato di più di un terzo, quindi è un fenomeno in crescita e una domanda che le famiglie fanno e che trova una risposta nell'immigrazione, ma sappiamo che le regole dell'immigrazione sono una maglia stretta rispetto a questa che è una vera e propria ondata. Pensiamo che fra colf e badanti ci siano almeno 1 milione di immigrati, vedremo quanti sono gli irregolari, ma insomma praticamente un terzo della nostra immigrazione è fatta di personale che vive nelle nostre case, quindi dove si è realizzato questa sorta di welfare familiare. Prima, una volta, c'era la nonna, la zia che aiutava i bambini, aiutava l'assistenza degli anziani. Oggi abbiamo queste persone che sono una colonna, diciamo così, anche del nostro sistema sociale ed economico. Se noi pensiamo che nel nostro paese solo l'1% degli anziani ha un'assistenza pubblica, percentuali che negli altri paesi sono del 20-30%, capiamo perché questo fenomeno è così importante, così diffuso nel nostro paese, e soprattutto io credo questo sia nella coscienza di tutti, tant'è vero che a fronte di una legge restrittiva dell'immigrazione si è fatta questa eccezione. Io credo che il vero problema sia primo di capire quindi la natura del fenomeno dell'immigrazione, perché non possiamo dire che colf e badanti vanno bene e gli altri no, perché la natura è molto simile. È chiaro che noi siamo un paese che invecchia, che ha meno giovani e che quindi deve integrare le sue forze di lavoro in vari settori. E il secondo aspetto è: dobbiamo anche un po' occuparci di queste badanti e di queste colf, non possiamo pensare che siano tutti solo giovani aitanti, perché proprio la nostra indagine ci dice che ormai quasi un 15-20% e ha più di 50 anni, quindi una realtà che va stabilizzata non soltanto regolarizzando, ma capendo che noi abbiamo 1 milione di lavoratori che fanno assistenza, che vengono pagati dalle famiglie, quasi 1 miliardo al mese viene speso dalle famiglie per pagare questo personale, e che quindi è lo Stato che a questo punto non eroga investimenti per fare case di assistenza, per fare l'assistenza domiciliare, deve un po' tener conto che questo sistema non può essere solo lasciato allo spontaneismo e al protagonismo della famiglia. Certo, c'è un po' di fai da te del welfare, un po' di sostituzione di un welfare pubblico che, come diceva appunto il dottor Roba, è in larga parte inefficiente proprio nell'assistenza agli anziani, presenta meno strutture di quanto presentino altri paesi per l'assistenza agli anziani in una situazione sociale italiana in cui fortunatamente si vive più a lungo, ma l'invecchiamento porta con sé anche alcuni problemi. Io vorrei chiedere a Franco Pittau della Caritas, a livello proprio di integrazione, e il problema dell'integrazione degli immigrati è un problema particolarmente sentito, come si può giudicare la presenza di queste colf, di queste badanti all'interno della società italiana? Franco Pittau. Beh, diciamo, noi abbiamo un peso molto forte che ci condiziona negativamente, che è quello di pensare l'immigrazione come un fenomeno temporaneo. E questo si sta riversando anche sulla presenza delle colf immigrate, perché, come diceva il dottor Roma, questo welfare all'italiano, nonostante tutto, è stata una soluzione positiva, perché in assenza dell'intervento pubblico le famiglie e gli immigrati si sono aggiustati per dare un'assistenza tutto sommato interessante e molto personalizzata ai nostri anziani. Però partendo da questa soluzione facile, perché i costi si sono molto abbassati rispetto a quelli che sarebbero stati ricorrendo, non so, a un'infermiera per la notte, non c'è proprio paragone, e noi ci siamo adagiati, perché è da tanti anni che ci sono le COS e non si è fatto un piano nazionale per approfittare di queste mamme che hanno solo l'esperienza di mamme, ma non necessariamente delle acquisizioni sanitario di altro tipo che aiutino a curare gli anziani, assistere i malati e così via. Noi non abbiamo fatto niente, proprio niente. In più, dilatandosi molto il bisogno di assistenza, c'era anche il bisogno di facilitare l'organizzazione di questa assistenza. E noi non abbiamo fatto niente, per esempio facilitare cooperative di immigrati che sarebbero possibili solo agendo sulla contribuzione e rendendola agevole così come è per la famiglia. Non è stato fatto niente. E allora quando si parla di gestione dell'immigrazione bisognerebbe pensare non solo ai comprensibili bisogni di sicurezza, ma alla gestione proprio delle persone per salvaguardare i loro diritti, per elevare il loro livello professionale, e su questo noi siamo molto in ritardo. Allora, questo welfare all'italiana, dove il protagonista anziché la struttura pubblica è stata la famiglia, potrà continuare ad andare avanti, noi non avremo le forze di seguire il modello scandinavo, solo se noi a livello di politiche facciamo qualcosa di più, che non c'è stato assolutamente. E infatti finora si parla anche in questo caso di una regolarizzazione, non c'è un'attività particolare, non ci sono formazioni, non c'è un'attività di formazione verso queste colf e queste badanti, non c'è un progetto per l'inserimento di queste colf e di queste badanti nella società, mi sembra. Io appunto vedrei allora da vicino questa sanatoria con Maria Carla De Cesare e Francesca Padula. Maria Carla, riassumiamo un attimo le tappe di questa sanatoria. Si comincia domani, chi vuole può già pagare. Certo, diciamo che i ministeri hanno dato la possibilità di iniziare a pagare da domani. Da domani si può pagare con l'F24, un F24 particolare che come dire, contiene solo i versamenti a debito. Ecco, l'F24 non è un modello di automobile, ma è un modello che va compilato per i pagamenti lo si trova in banca? Lo si trova in banca, lo si trova alla posta, questo diciamo è il modo più facile per reperirlo. Non si può utilizzare il computer di casa e quindi non si può collegarsi e pagare questo F24 dal computer di casa. È un modello F24 che contiene solo lo spazio per il pagamento. Il forfè è un forfè di 500 euro per ogni persona che si vuole sanare. E quindi, come dire, con questa ricevuta che poi andrà presentata o all'INPS a seconda se si vuole sanare la colf italiana, comunitaria o la colf straniera o la badante regolare, oppure allo sportello unico per l'immigrazione se si sana la badante o la colf che sta irregolarmente in Italia. Quindi è una sanatoria sia contributiva sia come permesso di soggiorno? Certo, diciamo che ha queste due facce. Naturalmente, come dire, la grande aspettativa è quella di far emergere non tanto il lavoro di italiani o comunitari o di stranieri regolari, il lavoro nero di queste persone, ma è quello di, come dire, di far emergere gli stranieri clandestini nel nostro paese. Dicevo che appunto si paga da domani e poi le domande potranno essere presentate dal 1 al 30 settembre. Il fatto di pagare da domani non vuol dire prenotare la sanatoria, vuol dire semplicemente pagare, quindi la domanda va perfezionata perché altrimenti, come dire, non si ha, come dire, non si ha alcun titolo. Ecco, io una domanda un po' provocatoria a Francesca Padula: in cambio di questi 500 euro lo Stato cosa ci dà? Lo Stato ci dà la possibilità di far emergere i clandestini, che in Italia sono un numero assolutamente elevato, appunto le stime dicono 500.000 ma anche 1.000.000, e soprattutto per i datori di lavoro, quindi per le famiglie, la possibilità di mettersi in regola. Perché? Allora, diciamo che questa grande regolarizzazione, che è la seconda dopo quella della Bossi-Fini, con la quale erano stati sanati 650.000 persone, è stata una strada obbligata essenzialmente dopo l'entrata in vigore del reato di clandestinità. Quindi è entrata in vigore una norma l'8 agosto con nuove sanzioni per gli immigrati clandestini, sapendo, perché appunto tutti lo sappiamo, che ce ne sono 1.000.000 in Italia. Allora, questa è la novità, il reato di clandestinità, ma per le famiglie e per le imprese che finora hanno occupato immigrati irregolari c'erano già delle sanzioni e si rischiava, cioè c'erano le sanzioni penali. Pratica si evitano le sanzioni, ma esatto, lo Stato non fornisce un servizio, in cambio di 500 euro non dà un servizio di assistenza, di consulenza, di formazione, di inserimento. Sul personale domestico o perlomeno sulle assistenti familiari, perché il vero nome con cui il contratto chiama quelle che noi chiamiamo le badanti, le madri migranti, in realtà sul fronte appunto della formazione non c'è nulla di nuovo. Però ecco, si dà a queste persone un permesso di soggiorno, cioè queste persone senza il permesso di soggiorno in Italia sono clandestine, ma non hanno nessun tipo di assistenza, nessun diritto, sono veramente dei fantasmi. E quindi sicuramente con i servizi che svolgono e con i numeri, perché il numero appunto di 700.000 badanti che assistono a tempo pieno gli anziani, un numero enorme, un numero superiore a tutti i dipendenti della sanità pubblica, quindi quantomeno si permette a loro di avere un permesso di soggiorno, di regolarizzare la propria vita. Ecco, io vorrei chiedere al direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, se non si sente il bisogno invece anche di qualcosa di più, di un'attività di formazione. Pensiamo che queste badanti svolgono attività anche infermieristiche, quindi dovrebbero avere certe garanzie, offrire certe garanzie alle famiglie. Forse su questo fronte si fa troppo poco, dottor Roma. Ma si fa veramente poco. Io, seguendo un po' questo argomento, ho visto che ci sono alcune realtà locali, mi sembra anche il Comune di Milano, che ha fatto dei corsi di formazione, ma insomma per numeri che sono assolutamente sperimentali, 20-30 persone. C'è il problema della formazione, ma c'è forse anche il problema di uscire da questa ambiguità, perché noi pensiamo sempre, dichiariamo quando parliamo di sanità, bisogna dividere la sanità dall'assistenza, bisogna usare l'assistenza domiciliare, bisogna realizzare strutture di territorio proprio per quanto riguarda le lungodegenze, quindi i problemi della non autosufficienza. Queste sono le dichiarazioni. Nei fatti abbiamo visto che c'è un sistema diffuso gestito dalle famiglie in maniera molto spontanea e, diciamo francamente, anche con qualche problema per il futuro, sia perché i flussi di immigrazione non saranno infiniti, sia perché la struttura, l'invecchiamento della popolazione porterà ad avere sempre maggiori problemi di un'assistenza qualificata. Quindi oggi forse bisognerebbe ripensare un po' anche il nostro modello di welfare, forse togliendoci dalla testa quello che non abbiamo fatto e che non sappiamo fare o che non difficoltà potremmo fare in futuro, perché vogliono dire investimenti pubblici rilevanti, e sappiamo che invece la spesa per l'assistenza è tutta centrata sulla previdenza, sulle pensioni, e molto poco sull'assistenza. E poi ci abbiamo anche la sanità che ha i suoi problemi, e forse ripensare un modello italiano di welfare basato su strutture territoriali che possano integrare questo welfare diffuso, familiare, domestico, che possa diventare, avere anche dei riferimenti più certi a livello territoriale. Pensiamo ai piccoli ospedali, può darsi che in questi piccoli ospedali, che non hanno più funzionalità sanitaria, possano diventare dei presidi, dei riferimenti a cui la famiglia con le sue assistenti, i suoi badanti possa riferirsi proprio nei momenti in cui i problemi sanitari dell'anziano diventassero più importanti. Insomma, voglio dire, oggi noi dobbiamo questa integrazione spontanea forse varrebbe la pena di lavorarci anche con poco sforzo finanziario, ma con tanta capacità professionale, perché sul territorio divengano proprio questa rete capillare diffusa che però abbia una qualche organizzazione, certo, di riferimento, anche perché non sia lasciata a se stessa, perché secondo me nel futuro noi questo problema ce lo dobbiamo porre. Cioè, io non credo che i quarantenni di oggi, fra 20-30 anni, quando avranno bisogno di assistenza, ritroveranno questo stesso modello. Quindi varrebbe la pena. Abbiamo adesso regolarizzato, ecco, ci siamo tolti quest'altra finzione italiana. Tutti sapevamo che c'era un sacco di persone assolutamente lontane da qualsiasi problema di sicurezza, visto che vivono nelle nostre famiglie, che conosciamo con le loro facce, con la loro umanità, abbiamo dovuto fare questo doppio passo, cioè un passo in avanti e due indietro. Prima del reato di clandestinità, però poi sappiamo che c'è gente che la clandestinità la vive da 7-8 anni, non ha mai commesso niente di male, anzi vive una condizione come lavoratore di un super nero, direi, perché è un lavoratore che non ha fino adesso nessun diritto. Però, ripeto, il nostro futuro credo che deve essere quello di organizzare un po' meglio. Quindi, d'accordo, abbiamo tutte le nostre debolezze, ma non pensiamo di poter andare avanti per molti anni con questo spontaneismo che riguarda sia l'assistenza come un fatto di salute, quindi assistenza infermieristica. Fra l'altro adesso noi facciamo la regolarizzazione di golf e badanti, e tutti quelli che lavorano nel campo infermieristico, che magari non sono regolari, che fanno il loro lavoro in altri settori, non quelli familiari. Cioè, noi dobbiamo anche porci un po' più in generale il problema di come regolare un'immigrazione che non può essere solo al nostro servizio, senza tener conto che gli immigrati sono delle persone, sono dei lavoratori. Certo. Che danno un apporto costruttivo, un grande apporto al nostro paese. Ecco, che rischiano invece di diventare anche un alibi per non fare quelle scelte sul fronte del welfare che lei, dottor Roma, ricordava, che sono scelte peraltro indispensabili proprio per la coesione sociale, per le prospettive che può avere una società italiana, che non può affidarsi solo, pur se è importante affidarsi a questa possibilità, ma non deve restare la sola possibilità per l'assistenza agli anziani e così via. Ci sono già alcuni messaggi SMS, con le telefonate in linea, prego di attendere un attimo. 800 24 00 24 per il numero verde per le telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Tra questi messaggi ce ne sono un paio. Maria Carla De Cesari chiedono se ci sono dei limiti di età, di provenienza particolari che appunto possono limitare questa regolarizzazione, oppure se può interessare chiunque. No, diciamo che può interessare chiunque. Comunque, ci sono dei limiti per regolarizzare gli immigrati clandestini, ma che sono limiti imposti al datore di lavoro. Per regolarizzare la COLF occorre possedere un reddito di almeno 20.000 euro nel 2008 se la famiglia ha un solo reddito, oppure 25.000 se la famiglia ha più redditi. E per quanto riguarda invece la regolarizzazione di badanti, occorre avere un certificato medico che in qualche modo attesti la non autosufficienza della persona da assistere. Nel caso in cui sia necessario regolarizzare due badanti, occorre un certificato medico che dica che alla persona occorre l'assistenza di continuativa di due badanti. Quindi questo è da tenere presente in modo particolare. Grazie Maria Carla. Eccoci tornati, 800 24 00 24 il numero verde per le vostre telefonate, 349 238 6666 il numero per i messaggi SMS. Silvia da Milano, buongiorno. Un vecchiaccio. Pronto, buongiorno Silvia da Milano. Non pronto. Eccoci, buongiorno, dica. Buongiorno, senta, io vorrei fare questo quesito che non viene mai trattato. Che la maggior parte delle golf fa 2 ore alla settimana in 3-4 famiglie, anche per la ristrettezza delle case che ci sono a Milano. E si possono cumulare queste ore o devono essere minimo 20 ore alla settimana in una sola famiglia? La signora ha risposto con la seconda affermazione. Maria devono Carla. Essere per regolarizzare una golf clandestina bisogna garantirle almeno 20 ore settimanali. Questo perché, come dire, allo sportello unico, una volta che è stata istruita la pratica, una volta che sono arrivati tutti in nulla osta per la regolarizzazione, occorre stipulare il contratto di soggiorno che prevede almeno 20 ore settimanali. Ma queste possono essere divise tra più famiglie? No. Non è possibile il cumulo. No. Di fatto ci sarà perché il datore di lavoro, perché il datore di lavoro, e questo lo prevede la Bossi Fini, deve firmare un contratto di soggiorno con il lavoratore, con la lavoratrice, la colfa e la badante che emerge. Quindi è richiesto che un datore di lavoro firmi e garantisca le 20 ore settimanali per un determinato periodo minimo, che è un anno, con un lavoratore. Questo è previsto proprio dalla Bossi Fini. Il contratto di soggiorno andrà firmato nel caso di badanti e colf straniere allo sportello unico dell'immigrazione, quindi in prefettura. Quindi la famiglia che ha bisogno di 2 o 3 ore deve rivolgersi a una colf che ne fa già 20 da un'altra parte. Esatto, o perlomeno le colf che fanno tante ore possono far capo ad un solo datore di lavoro che magari si accolla il compito di portare a termine la procedura, perché poi c'è tutta la procedura telematica, e poi eventualmente dividere i contributi, il forfè, con gli altri datori di lavoro. Carla D'Alecco, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio di essere stata chiamata. Innanzitutto i complimenti, perché è la prima volta che su questo argomento sento un discorso molto equo rispetto anche alle famiglie, soprattutto alle famiglie per quanto mi riguarda. Volevo dire a questo proposito che appunto io ho una badante con 2 anziani non autosufficienti, o meglio un anziano non autosufficiente, l'altro ancora efficiente, diciamo, si arrangia da solo, e ho pagato nel tempo, a seconda delle necessità, 1150, 1350, attualmente 1000 al mese, perché concordavamo insieme con la badante in base appunto a quelle che erano le esigenze, ricovero ospedaliero piuttosto che altre necessità di malattia in casa per cui c'era più bisogno. Ho mantenuto per 4 anni una persona che veniva una volta alla settimana a fare i lavori pesanti casalinghi. Ecco, allora mi chiedo, mi sembra che da quello che ho capito dei contratti, come ho sentito ai sindacati, più o meno le cifre siano in linea con quanto io ho pagato. Ecco, vorrei capire perché devo pagare i 500 euro, perché alla fine è una tassa che noi paghiamo sugli anziani, che ci accogliamo completamente, mentre lo Stato non ci dà assolutamente niente, perché l'anziano resta sulle mie spalle con tutto il gravoso e il penoso da dover risolvere. E quindi ecco, mi chiedo, i 500 euro che cosa vogliono dire? Cioè, lo Stato incassa semplicemente perché non mi dà assolutamente niente. A me sembra di aver pagato quello che dovevo. La ringrazio, abbiamo detto forse già prima, sì, questa è, Maria Carla, se mi conferma, è una tassa che va pagata una tantum per regolarizzare, per consentire a queste persone che vengono da paesi extracomunitari, consentire a queste persone di soggiornare, di vivere in Italia e di lavorare. Quindi è una tassa che, di cui si fa carico il datore di lavoro, la famiglia, per regolarizzare queste persone. Sì, diceva Francesca che appunto oggi c'è il reato di immigrazione clandestina e la possibilità di mettere in regola appunto queste persone che vivono con noi, che lavorano con noi. In questi 500 euro va ricordato che sono compresi anche i 3 mesi di contributi da aprile fino a giugno, perché la legge richiede che la sanatoria si possa fare per coloro che hanno in corso un rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 2009 da almeno 3 mesi. Quindi, come dire, in queste 500 euro si paga sì la tassa di regolarizzazione, se vogliamo chiamarla così, una quota, un contributo per gestire questa operazione di sanatoria, e si paga anche, diciamo, quel contributo che è dovuto all'INPS per mettere in regola dal punto di vista previdenziale questi lavoratori. Diciamo, possiamo dirlo che è un modo anche per lo Stato di fare un po' cassa, sfruttando un po' la situazione di bisogno che hanno le famiglie su questo fronte. Naturalmente, va detto però che questi lavoratori a questo punto dovrebbero essere iscritti all'INPS, si dovrebbero pagare i contributi per loro mensilmente, quindi, come dire, c'è questo mix di da un lato di tasse, dall'altra di, come dire, quota per i contributi pregressi nel periodo aprile-giugno 2009. Rino da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, sono Lino da Pordenone. Ci dica. Della provincia di Pordenone. Sì. Io ho un problema, siamo 5 persone in famiglia e siamo tutti invalidi. E a noi ci serve una badante e un autista. Io volevo chiedere se posso metterli tutti e due a mio nome. Grazie, la domanda è molto precisa, Francesca Padula. Io direi di sì, nel senso che comunque la regolarizzazione prevede tutto il lavoro domestico e l'assistenza familiare. Allora, oltre alle figure di cui di solito parliamo, le colfe e le badanti, ci sono una serie di figure, i custodi, i giardinieri, quindi forse anche l'autista. Anche l'autista può rientrare, soprattutto nel caso dell'ascoltatore, appunto, in cui c'è un'effettiva necessità. Quindi direi sicuramente, anche perché c'è un limite di 2 badanti e una colf per famiglia, per ognuna di queste figure vanno pagate le famose 500 euro appunto di forfè contributivo, tassa eccetera, e per ognuna di queste persone va fatta una singola domanda online a partire, lo ricordiamo, dal 1 settembre fino al 30 settembre, senza fretta, continua a ripetere il Viminale, non è un click day, quindi non c'è bisogno di prenotarsi, non ci sarà nessuna graduatoria. Tutte le famiglie che avranno fatto la domanda online personalmente o rivolgendosi ai patronati e ai sindacati, alla fine di settembre saranno sullo stesso piano, cioè saranno considerate nella stessa maniera. Non ci saranno quote, insomma. Non ci saranno quote, non c'è quindi fretta. Saranno tutti regolarizzati senza badare al numero. Potremmo avere anche delle sorprese alla fine. Potremmo avere anche delle sorprese, sì. Piero da Palermo, buongiorno. Dica. Io ho sentito parlare, intanto vi saluto. Grazie. Ho sentito parlare solo di collaboratori extracomunitari. E per quello che riguarda i comunitari, i neocomunitari, diciamo, le condizioni sono le stesse. Sì, ne abbiamo parlato prima, comunque, Maria Carla. Dunque, la procedura per i lavoratori comunitari va fatta all'INPS. Non ci sono, per quanto riguarda il datore di lavoro, né limiti di reddito, né un limite di ore settimanali, né un plafond minimo di ore settimanali. Sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori italiani. La procedura è all'INPS, è una procedura anche un pochino più semplice, perché per esempio si può andare all'INPS allo sportello a consegnare il modulo, si può spedire per raccomandata con ricevuta di ritorno, si può fare probabilmente anche telefonicamente. Quindi, come dire, per i lavoratori comunitari c'è la procedura all'INPS. La procedura all'INPS vale anche per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Quindi senza 500 euro? Con i 500 euro. Con i 500 perché euro. Lì c'è, come dire, la presunzione dello Stato che, come dire, c'è stato del lavoro nero e... sono stati evasi dei contributi. Sono stati evasi dei contributi. Proprio per sanare questa evasione contributiva, no? Certo. Altrimenti, voglio dire, uno può andare all'INPS e come dire, dichiarare il proprio rapporto di lavoro dal giorno primo settembre senza pagare nulla. Ecco, c'è anche questo. Ecco, questo se fatto. Una persona assume una colf, certo, il primo settembre, va regolarmente all'INPS di fare una dichiarazione di inizio lavoro, paga i contributi dal primo settembre, è chiaro che se non paga i 500 euro. E non paga i 500 euro, però se regolarmente l'assume dal primo settembre, certo. Poi in passato, quello se sarà un se ha commesso dei reati in passato potrà essere sempre perseguibile, in teoria. In teoria, sì, insomma, se ha occupato, come dire, in modo non regolare un lavoratore, in teoria sì, insomma. Mohamed Dalecco, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Io voglio chiedere velocemente due domande. La prima: per regolarizzare la gente che ha avuto un'espulsione per motivi di mancanza documenti o permesso scaduto. La seconda domanda: per la gente che ha un familiare in casa clandestino e voleva regolarizzarlo. Io voglio sapere cosa dobbiamo fare. Grazie, forse per chi ha avuto un decreto di espulsione sarebbe difficile regolarizzarlo, Francesca. No, Pagura. In realtà i decreti di espulsione, purtroppo anche qui bisogna fare un passo indietro, i decreti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari sono stati tantissimi negli anni, molte prefetture, questure, eccetera, nei controlli hanno emesso decreti di espulsione che non sono stati rispettati, quindi molti irregolari hanno un decreto di espulsione. Anche questi possono essere sanati, ci sono dei casi, delle eccezioni, diciamo, delle espulsioni per motivi gravi, ma se è semplicemente un'espulsione per un permesso di soggiorno scaduto, rientra tra le fattispecie previste dalla regolarizzazione. Se uno straniero ha un clandestino in casa, ecco, qui dipende, nel senso che possono fare domanda di regolarizzazione datori di lavoro italiani oppure datori di lavoro stranieri che però sono regolari da almeno 6 anni in Italia, cioè devono possedere la carta di soggiorno. Quindi se è un extracomunitario che ha e la carta di soggiorno può fare domanda di regolarizzazione come un datore di lavoro italiano e comunitario, perché gli italiani e i comunitari sono sempre equiparati adesso. Grazie Francesca Padula. Rosi da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io sono da 6 anni qui in Italia. Cioè il permesso di soggiorno per motivi di familiari che ho preso. Lei quindi non è italiana, è albanese? Sono albanese, sì. Si dica. Cioè il permesso di soggiorno solo per il motivo di assistenza familiare, perché ho partorito i bimbi qui, e mi hanno detto che solo per un flusso posso cambiare il motivo di permesso di soggiorno. Io adesso sono regolarizzata da una signora che faccio il golf. Come posso cambiare questi Allora, dunque, non ho capito. Allora, la signora ha un permesso di soggiorno per motivi familiari, quindi vuol dire che non è regolare, non ha un permesso di soggiorno per lavoro. Sì, per il lavoro no. No, allora vuol dire permesso di soggiorno per motivi familiari, però mio marito lavora regolarmente, ha un lavoro fisso come camionista, però questi devo rinnovare anno per anno questi documenti. Ma se lei non ha un ricongiungimento, quindi diciamo che non ha un permesso di lavoro, ma un permesso soltanto per motivi familiari, non ha titolo a lavorare, cioè il suo permesso di soggiorno. Sì, il mio permesso dà diritto a lavorare perché deve mantenere la famiglia, però mi dice che anno per anno devo andare a giudici di Firenze, minorenni, per rinnovare questo permesso. Solo se esce un flusso allora, di lavoro o di badante, mi hanno detto forse può cambiare questo permesso di soggiorno. Allora io direi di approfittare di questa regolarizzazione, perché non è un flusso come dicevamo all'inizio, ma decreti flussi al momento non se ne prevedono, non si sa nemmeno se ce ne saranno ancora nei prossimi anni, quindi direi che per convertire il suo permesso di soggiorno conviene approfittare della regolarizzazione attuale. Grazie, abbiamo ancora altre telefonate in linea, altri messaggi SMS. Vorrei rispondere a uno, un messaggio SMS che ci dice: porre dei limiti di reddito favorisce sempre gli evasori. In questo caso non mi sembra vero, perché porre dei limiti di reddito vuol dire che chi evade le tasse e dichiara meno di 20.000 euro di reddito non può regolarizzare un eventuale COF evadente, quindi non premia l'evasore, ma premia, casomai, se si può parlare di premio, colui che dichiara al fisco il proprio reddito, che con questo reddito può permettersi ovviamente di avere una COF e una badante. Bentornati all'ultima parte di 9 in punto. Stiamo parlando di COF e badanti, stiamo rispondendo alle domande degli ascoltatori. Una piccola precisazione: mi diceva Maria Carla, il limite di reddito vale per le COF, non vale per le badanti. Se si ha un bisogno di assistenza di una persona, non c'è un limite di reddito che tenga. Gianni da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo porre un quesito, inizio dalla fine. A me sembra che questa sanatoria penalizzi ancora una volta le persone che si sono attenute alle regole, vale a dire chi ha fatto una domanda nel 2007, l'ultima volta che è stato emesso il decreto flussi, per una badante, a tutt'oggi diciamo non è stato chiamato, perché il flusso, mi hanno spiegato, diciamo, mi sono informato, mi hanno detto che quelli del 2008 non sono stati emessi perché avrebbero integrato le molte domande che si erano state presentate nel 2007. Quindi voglio dire, la mia domanda, che non è entrata nel flusso 2007, mi hanno detto che però numericamente entrerà nei flussi 2008, ad oggi ancora non è stata presa in considerazione, quindi io la persona non la posso regolarizzare perché è nel suo paese, come la legge diciamo prevede, e invece questa sanatoria alla fine riesce a normalizzare le persone che comunque hanno chiamato clandestinamente il lavoratore, insomma, e quindi io non so come uscirne a questo punto, perché la persona che devo chiamare è nel proprio paese, perché sto attendendo appunto che il nulla osta per... Certo, lei ha seguito le regole e le regole a questo punto lo penalizzano, esatto. Maria Carla De Cesari, purtroppo è così. Purtroppo è così, sì, non c'è che dire, purtroppo è così. Di fatto però le graduatorie dei click days rimarranno attive, probabilmente ci sarà una corsia da seguire anche per loro. Le conviene assolutamente informarsi nello sportello unico, alla prefettura dove ha fatto la domanda, perché, e questo mi voglio dire, anche il presidente Fini ha detto, è necessario cambiare la Bossi Fini, cioè il caso del lettore è un caso, dell'ascoltatore è un caso che rispettava la Bossi Fini, ma un raro caso di chiamata dal paese, dall'estero per la Bossi Fini, che prevede appunto che il lavoratore da assumere sia all'estero. Di fatto la maggior parte delle famiglie, come sappiamo, si rivolge a extracomunitari già in Italia. Maria Carla, vuoi dire? Sì, diciamo che forse, non so, poi questo lettore, questo ascoltatore, come diceva Francesca, sarebbe bene se si informasse allo sportello unico, ma nella sanatoria è prevista la possibilità di convertire la domanda, cioè di coloro che appunto hanno partecipato all'operazione flussi, di convertire la domanda, di fare la sanatoria, e a quel punto la domanda per i flussi decadrà, verranno tenuti in considerazione tutte le autorizzazioni che sono tutti in nulla osta, che erano già stati acquisiti, e in qualche modo si risolve la situazione. Naturalmente il lettore si trova nel caso particolare di aver rispettato la legge. Probabilmente non è un caso isolato. Non è un caso isolato. Di molti che hanno rispettato, certo, la legge, adesso si trovano forse con il fatto che altri che non l'hanno rispettata sembrano favoriti, però a questo punto sono tutti sullo stesso piano e quindi tutti possono sfruttare questa occasione. Renato da Genova, buongiorno. Buongiorno. Guardi, vi ho telefonato perché mi sono sentito rattristato nel corso della sua trasmissione, specialmente. Mi spiace di averla rattristata. Ma rattristato per un fatto, per questo paese, che cosa è diventato, che cosa indirettamente date anche voi di incoraggiamento a questi atteggiamenti. Ma come? Gente che sono stati evasori fiscali, che sono stati evasori di contributi, che hanno tenuto persone irregolari a servizio per anni schiavizzandole, adesso si sentono ricattati dallo Stato perché gli chiede 500 euro. Ma Dio... Ho due figlie, abbiamo tre case, la mia e le loro due, abbiamo tre persone a servizio, tre colf, una per una giornata e l'altra le altre due a ore, sono sempre state in regola. Abbiamo cercato di assumerle che fossero servizio, requisito era che fossero in regola, perché ci siamo sentiti persone decenti e avremmo vergogna a dover andare in un ufficio con 500 euro in mano a dire: sai, io sono 15 anni che sfrutto sta poverina. Ma nessuno fa questo discorso, nemmeno voi. No, io la ringrazio di questa testimonianza. Di fatto bisogna prendere la realtà per quella che è, non per quella che noi vorremmo che fosse. E di fatto io comprendo la sua tristezza nel vedere a volte degli atteggiamenti e delle scelte sociali quasi un premio a chi si è comportato non in regola e non invece chi si è comportato seguendo le regole scritte e non scritte, le regole non solo delle leggi ma anche della morale, chi si è comportato così invece non ha nessuna soddisfazione. Ma la soddisfazione ognuno deve trovarla innanzitutto nella propria coscienza, nell'aver fatto il proprio dovere, nel sapere di poter contribuire a far crescere una società, ognuno per proprio conto, anche senza fare notizia, senza appunto fare qualcosa che sia clamoroso, perché fa comunemente il proprio dovere silenziosamente, pagando i contributi, pagando le tasse, mettendo in regola le persone, svolgendo il proprio lavoro. Molto spesso chi fa il proprio dovere non ha un riconoscimento esterno, ma ha un riconoscimento, quello che è più importante, che è quello di sapere di aver fatto il proprio dovere, di essere a posto con la propria coscienza, di guardare gli altri in faccia, di guardarli negli occhi senza dover nascondere qualcosa. E questa è in fondo la forza più importante, che non viene né dalle trasmissioni radio né dai giornali, ma viene guardandosi allo specchio ogni giorno e sapendo appunto di contribuire in questo modo alla crescita della società. Noi abbiamo fatto appunto un percorso anche per cercare di capire nei meandri della tecnica, delle leggi, quali che sono le opportunità per avviare anche, certo, ogni tanto con delle sanatorie, con dei condoni, cercando di dire come si fa ogni tanto, scordiamoci il passato, guardiamo un po' in avanti e vediamo di mettere un po' una pezza anche su leggi e regolamenti che avevano forse in passato troppo costretto le persone, che avevano portato quindi anche a forme di illegalità. In questo forse questo passaggio, io adesso lo chiedo ai nostri ospiti, Giuseppe Roma e a Franco Pittau, questo passaggio può essere un passaggio che può cambiare anche atteggiamento sul fronte delle leggi, dei regolamenti, ma soprattutto della capacità della società di affrontare i problemi, di affrontare quindi questo tema molto importante e molto forte dell'immigrazione. Dottor Roma. Guardi, anche queste telefonate ci dicono chiaramente che certo ci può essere stato un atteggiamento di chi in questa condizione di irregolarità degli immigrati ha tratto dei vantaggi, sfruttando eccetera, però io credo che la gran parte delle persone si siano trovate nelle condizioni di non trovare persone regolari perché c'erano delle limitazioni ai confini. Pensiamo che oggi quasi 200.000 badanti sono di nazionalità rumena, che solo fino a qualche anno fa erano extracomunitari, adesso sono neocomunitari. Però quello che veramente duole è questa incapacità che abbiamo complessivamente, qui non è solo questione di governo o di servizi pubblici, ma che abbiamo di affrontare i problemi con una certa, come posso dire, razionalità. Invece noi lo facciamo sempre emotivamente. Sappiamo che per il nostro welfare abbiamo bisogno di persone che ci aiutino, essendo uno dei paesi più vecchi del mondo, che aiutino nell'assistenza agli anziani, e poi abbiamo fatto delle leggi che dicono che bisogna trovare una persona che deve avere quella familiarità, anche quella capacità di essere accettato, di farsi accettare, di voler convivere con una famiglia italiana, magari richiedendo nel paese d'origine, con procedure abbastanza bislacche che pochissimi poi hanno seguito, anche per la difficoltà di individuare la persona che poi starà per anni nella nostra casa. Quindi credo che possiamo trarre, certo è sempre brutto perché sembra che sempre l'Italia dei furbi, di quelli che evadono, che ha sempre ragione, però nella realtà, se guardiamo in maniera meno moralistica, dovremmo dire che è un'Italia che non guarda mai con razionalità i problemi. Se abbiamo un problema di assistenza, è inutile che, siccome il numero delle quote, se supera i 50-60 mila, allarma certe aree geografiche, certe aree di, anche di opinione pubblica, noi abbiamo fino adesso detto niente, non si fanno le quote, i flussi li teniamo bloccati. In questo modo abbiamo quasi naturalmente fatto crescere questa, che ritenderei più che clandestinità, veramente la farei rifluire in una logica di irregolarità burocratica, sì. Nel senso che io credo che la gran parte delle famiglie italiane poi tratti con umanità e non speculi su quello che è, come per tutti, il lavoro nero, una cosa da condannare sia quando si tratta di italiani che quando si tratta di stranieri. In questo caso credo ci sia un fenomeno più grande, che la grande maggioranza sia fatto di un bisogno, di una necessità a cui lo Stato non ha in maniera previgente fatto, non si è fatto carico di allargare un po' i flussi regolari, per cui la burocrazia è un po' colpa anche di questa regolarizzazione. Abbiamo visto il caso della signora albanese, non si sa più in che modo stare in Italia, se cambio la motivazione, cioè voglio dire, dovremmo essere un po' più semplici e lineari. Gli viene qui per lavorare, gli diamo il permesso di soggiorno, gli cerchiamo di il più possibile integrare, perché va avanti così. Pensiamo cosa sarebbe l'Italia senza un milione di queste persone. Infatti, anche questa è una riflessione da fare. Ringrazio Giuseppe Roma. Franco Pittà, una rapida conclusione. Sì, una rapida conclusione consiste nell'auspicio di arrivare a una visione organica della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate. Quindi, innanzitutto, non drogare il nostro mercato di lavoro, tenuto conto che noi nel futuro, nel 2050, prevediamo il 33% di ultra 65 anni e ben 5 milioni di ultra 80 anni. E tenuto conto che l'assistenza spende i soldi ma non li produce, pensare a introdurre nel mercato di lavoro non solo collaboratrici familiari ma anche altri lavoratori, cosa che non si è fatta. Ecco, tra l'altro con questa sanatoria si parla solo di colf e badanti, sì. E non si parla proprio degli altri lavoratori di cui peraltro l'industria italiana ha bisogno, come ha dimostrato l'indagine della Banca d'Italia i giorni scorsi, lavoratori che non rubano il posto, sì, agli italiani. La seconda cosa molto importante è: questo sforzo di emersione deve diventare una preoccupazione continua, perché come ha lamentato qualche ascoltatore, non è che si debbano pagare i contributi solo per assumere e poi non pagarli più. Purtroppo noi nella registrazione, negli archivi dell'INPS, abbiamo tra italiani e stranieri solo 700.000 persone assicurate nel settore domestico, vuol dire che la gran parte non si pagano i contributi. E questo è un gran male, sia nei confronti dello Stato e sia nei confronti degli immigrati, perché non pagando i contributi li priviamo di diritti civili fondamentali, come perdere il diritto al soggiorno. Certo. Terza cosa, cercare di mantenere i collaboratori e le collaboratrici familiari nel loro settore, perché purtroppo è una porta d'ingresso dalla quale si entra per poi non restare. Invece noi abbiamo bisogno di incentivi che, gratificandoli di più, trattandoli meglio anche contrattualmente, consentono a questa persona di entrare nel settore domestico e di rimanerci, perché noi non possiamo permetterci di fare entrare sempre persone, certo, per lavorare e poi non vederle più. Devo là purtroppo fermarla, il tempo è tiranno. Ringrazio Franco Pittao, coordinatore del settore immigrazione della Caritas, e Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, così come ringrazio Francesca Padula e Maria Carla Di Cesari, giornalista del Sole 24 Ore, che però su questo argomento torneremo. Francesca, mi parli? La seconda parte della guida sarà pubblicata domani con il Sole 24 Ore in omaggio. Si possono inviare già da oggi le domande, le prime risposte saranno sul Sole 24 Ore di lunedì prossimo, il 31 agosto. Appuntamento con Salva Danaio. Esatto, a Salva Danaio alla radio il 31 agosto, perché dal 1 settembre partirà la procedura telematica. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani. Ringrazio anche in regia Giorgio Mattè e in redazione Alessandro Marcotulli.